as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, eccoci di nuovo qui a Il Pane e Rose. Siamo sempre su Radio Città Fujiko, la trasmissione dei metalmeccanici, Pane e Rose e Libertà. La nostra sigla finale è cambiata, è vero, me l'avete fatta notare in molti, sì. Anche se gli Scapè sono forse il mio gruppo preferito, però questa canzone secondo me si adatta al momento e alla situazione. Questa puntata la dovevamo fare la settimana scorsa, non l'abbiamo fatta perché c'è stata l'avvertenza della Trackmac, che Dio tutti che sta continuando. Andate tutti quanti a Trackmac vicino a Imola, c'è un presidio continuo, hanno bloccato i cancelli, i compagni sono lì contro i licenziamenti, contro la chiusura del loro stabilimento. Questa puntata è il seguito della puntata di 2 settimane fa, in cui abbiamo registrato l'intervento che il segretario nazionale della FIOM, De Palma, ha fatto in Bonfiglio dei Riduttori, l'azienda in cui lavoro. L'aveva registrato perché è molto interessante. Nella seconda parte, nella prima parte, chi non l'ha ascoltata può andare comunque nella pagina podcast di Pane e Rose, pagina Facebook, la troverà, o nella mia pagina personale, chi mi conosce troverà la puntata. Questa seconda parte andremo più sullo specifico, sul contratto e soprattutto sulla questione del referendum. De Palma spiegherà come la battaglia contrattuale dei metalmeccanici si sta svolgendo. Se non avremo risposte, il 20 giugno ci sarà un altro sciopero generale. Sono già 32 le ore di sciopero che stiamo facendo, arriveremo a 40. Questa puntata è dedicata al contratto, alla spiegazione di perché questo contratto non sta andando avanti, soprattutto a causato della questione del salario. Sentirete De Palma che spiegherà bene qual è l'inghippo salariale, e poi chiaramente è venuto anche in fabbrica a spiegare ai lavoratori che bisogna votare. Il referendum, i 5 referendum sono collegati al nostro contratto. Adesso lasceremo subito a lui la parola. Questa puntata abbiamo sacrificato la musica, vabbè, per una volta si può fare. Ascoltiamo le parole di De Palma, che sono importanti. Insomma, segretario nazionale della FIOM, per noi che siamo una trasmissione metalmeccanici, chiaramente non possiamo far finta di niente, ascoltiamo e facciamo dei ragionamenti su quello che lui ha detto e andiamo avanti, ok? A dopo. Quando siamo andati a discutere, hanno detto e allora discutiamo per primo del salario. E noi gli abbiamo detto, certo, perché ora voi c'è una ritualità nei rinnovi dei contratti, anche questa è stata detta. La ritualità è sempre stata che tu partivi dagli elementi normativi e a metà strada più o meno cominciavi davvero a discutere della parte salariale. Stavolta, siccome noi sembra che abbiamo fatto una proposta oscena, ci hanno detto che dovevamo partire direttamente dai salari. Beh, partiamo dal salario. Normalmente, trattativa normale, io chiedo 2,80, tu dici io te ne posso dare 100. Comincia il braccio di ferro. Fai lo sciopero. Apri il negoziato. Vorrei ricordare che nella fase della pandemia noi abbiamo fatto 4 ore di sciopero. E siamo arrivati al rinnovo del contratto. E abbiamo fatto le famose 3 cifre nel rinnovo del contratto, che venivano ricordate prima. Siamo a 32 ore di sciopero. Loro ci dicono che il problema non è negoziare le quantità. Vorrei che questo messaggio vi arrivasse chiaro. Cioè, noi non siamo nella fase della trattativa in cui stiamo litigando per 1 euro in più o 1 euro in meno. Il punto è che loro vogliono far saltare il modello contrattuale che loro con noi hanno sottoscritto nel rinnovo del contratto precedente. Perché ci stanno dicendo che siccome i metalmeccanici sono gli unici ad avere la clausola di salvaguardia, che non c'è in nessun altro contratto, vi dico una cosa che mi ha molto colpito. Nella giornata di ieri, un parlamentare di Forza Italia e un parlamentare del PD mi hanno telefonato, io ero in un'assemblea, per dirmi: ma mi spieghi bene il modello contrattuale dei metalmeccanici? E l'altro mi ha detto: ma è vera questa proposta che avete fatto di detassare gli aumenti del contratto nazionale? Cioè, quello che voglio dire è che se ne accorgono della bontà del nostro contratto i parlamentari del centro-destra, i parlamentari del centro-sinistra, e io ho il problema che non ho il tavolo negoziale con la controparte di Federmeccanica. In cui, quando si sono presentati al tavolo, ci hanno detto che il modello contrattuale non era che c'è una certezza di quanto devi prendere. Ora, mo, pure voi, no? Addirittura, mo, volete la certezza di quanto volete di aumento nel corso del rinnovo del contratto nazionale. Facciamo così. La tecnica del gratta e vinci l'ho chiamata io. Cioè, loro prevedono col contratto nazionale che arriviamo a giugno. Perché giugno? Perché a giugno ti danno il dato dell'IPCANEL, cioè recuperi l'inflazione dell'anno precedente, gratti sopra, e vedi quanta è l'inflazione? L'1%? Ti aumenta il salario dell'1%. L'anno successivo, quanto è l'aumento dell'inflazione? Zero? Non prendi un euro. Guardate bene, un meccanismo di questo tipo non sarebbe un danno soltanto per i nostri salari e per il modello contrattuale. Sarebbe un danno da un punto di vista della logica del paese in cui siamo. Perché se io ho un modello contrattuale che prevede il fatto che nei primi 2 anni il vecchio contratto era 112 euro di aumento, al quinto livello, pochi, tanti, discussione già fatta. Dico solo che è stata vissuta positivamente nel rinnovo del contratto precedente. I primi 2 anni noi avevamo 25, 25, poi 27, poi 36, se non ricordo male, correggetemi se sbaglio. Noi abbiamo preso 25 e 25, poi 27 e 36 abbiamo preso di più per arrivare ai 311, ci siamo? Mediamente uno mi dice: buono che abbiamo preso negli ultimi 2 anni di più di quanto era previsto. Sbagliato, sbagliato, perché il punto non è solo quanti euro ho in tasca, il punto è che gli euro che ho in tasca, quante cose riesco a mettere nel carrello della spesa, quanta benzina riesco a fare quando vado alla pompa di benzina, perché io negli ultimi 2 anni è vero che ho preso di più, ma non è che quei soldi in più li ho presi e ho comprato le bottiglie di Moët Chandon. Io ho continuato a comprare le bottiglie d'acqua perché il punto era che allo stesso prezzo di prima era cambiato, e quindi io i miei soldi, da un punto di vista del potere d'acquisto, ho comprato forse meno di quanto compravo 2 anni prima. Quindi il punto non è che ho preso 311 euro, vorrei fare presente a Federmeccanica e Assistan, perché io con quei soldi lì sono riuscito, nella migliore delle ipotesi, a provare a pareggiare quanto è stata la perdita di potere d'acquisto. Quindi il messaggio che vi sto provando a dare è che il punto dello scontro non è 280, 100, il punto dello scontro è 280 imprevisti. Come nel gioco dell'oca, vediamo quanto prenderai ogni anno, e questo è il punto. E poi ha raccontato delle cose surreali, perché ora io sono andato una volta in un'azienda, mi hanno detto: ma come, Michele, ma qui hanno detto che ci davano 4.000 euro. E tu, scusa, e tu come? E no, perché hanno presentato a un certo punto una contropiattaforma, cioè normalmente tu presenti la piattaforma e loro rispondono sulle cose che tu gli chiedi. Si sono inventati pure il fatto che loro si fanno la piattaforma loro. Quindi noi siamo al punto, addirittura, che è come se fossimo uguali da un punto di vista della piattaforma. Cioè c'è la piattaforma delle imprese e la piattaforma dei metalmeccanici. Nella contropiattaforma ci hanno scritto: vi facciamo un grande regalo, vi diamo 4.000 euro. Come erano questi 4.000 euro? Noi dovevamo venire da voi, vi dovevamo dire: siate contenti, non abbiamo aumentato la paga base, però vi diamo 4.000 euro in un'unica soluzione. E voi, alla grande, 4.000 euro sono 4.000 euro. C'era un piccolo inghippo, che i 4.000 euro erano come quelli della Fontana di Trevi, cioè erano già vostri. Perché ci chiedevano di anticipare le quantità economiche che sono erogate mensilmente con i famosi scatti di anzianità. E per uno che ha la contrattazione di secondo livello, tra l'altro, c'è un problema in più. Che siccome quelli se li tieni dove stanno e non li muovi, c'ha incidenza sugli istituti contrattuali. Nel caso in cui invece te li danno tutti insieme, è chiaro che fai la media del pollo. Quindi rischia pur di perdere i soldi sopra. E in più, non bisogna essere un raffinato tributarista, ti rendi conto del fatto che se prendi 4.000 euro tutti insieme, rischi pure che ti scatta l'aliquota relativa e tu li butti tutti i soldi in fiscal drain. Un'operazione geniale, che però permetteva a noi politicamente di venire da voi e di dirvi abbiamo preso 4.000 euro, non so se rendo l'idea. Ma il punto è che noi proviamo umilmente a rappresentare i lavoratori e le lavoratrici, non a raccontargli delle balle rispetto a quello che sta succedendo. Terzo elemento sul salario, abbiamo chiesto che nelle aziende dove non c'è la contrattazione di secondo livello, non è il caso vostro, ma che ci fosse il fatto che il premio tu lo prendi anche nell'azienda dove ci hanno detto siamo d'accordo con voi, perché siccome noi pensiamo che il contratto nazionale deve servire esclusivamente a mantenere il potere d'acquisto, la redistribuzione del valore va fatta in azienda. Proposta: il rapporto tra fatturato e MOL al 10%, cioè loro il premio lo davano nelle aziende dove il rapporto tra MOL e fatturato è al 10%. Così, risultato fantastico, non era che noi aumentavamo i soldi anche per le aziende non sindacalizzate, e che noi anche nelle aziende sindacalizzate dove abbiamo i premi di risultato rischiavamo di perdere l'erogazione del premio di risultato, perché diventa un non-off rispetto al rapporto tra MOL e fatturato. Cioè, voi capite che quindi, fatemi dire, quando negozi è una trappola dietro l'altra che rischia anche di fare dei danni ai lavoratori e alle imprese che hanno già stipulato un punto di mediazione con i contratti aziendali. E qui c'è un punto. Molte aziende metalmeccaniche, da qui l'appello che faccio, anche qui in Bonfiglioli, come l'ho fatto in tantissime altre aziende in giro per l'Italia. Ma scusate, ma certo, in azienda noi litighiamo, ma poi dopo gli accordi, i contratti, li stipuliamo, perché abbiamo una base contrattuale che qualche volta dobbiamo fare pure sciopero. Ma non può succedere quello che sta succedendo in questo momento in Federmeccanica. Cioè il fatto che loro non sono neanche seduti al tavolo per il rinnovo del contratto nazionale. Il punto quindi è che noi gli scioperi che stiamo facendo, siamo a 32, ci riuniremo con FIMEWIM, ne proclameremo degli altri se non si riapre la trattativa, ma la cosa che stanno determinando è un neoprocesso tra l'altro di sindacalizzazione. Quanti anni sono che non facciamo gli scioperi articolati dentro le aziende e tornano gli scioperi articolati come una pratica negoziale che pensavamo non vi fosse più bisogno? E invece siamo tornati a praticarlo, e voi in questa azienda lo avete praticato con grande intelligenza contrattuale. Come veniva detto nella relazione, qui il punto non è a far male, qui il punto è che ci stanno facendo male, perché non stanno riconoscendo la titolarità contrattuale delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici. E in questa fase loro devono sapere che non è che il sindacato serve. Vi faccio un esempio per rendervi l'idea. L'ho trovato curioso l'altro giorno. Un'azienda dell'informatica che durante... Sapete che per fare lo smart working ci sono due strade. La legge prevede che puoi fare l'accordo collettivo oppure puoi fare l'accordo individuale. Avevano fatto gli accordi individuali in cui avevano deciso di remotizzare tutto sempre, perché era figo, no? C'era un periodo in cui la remotizzazione totale era una figata assoluta. Mo si sono resi conto che non funziona. Vengono da noi e ci dicono sarebbe opportuno fare un accordo sindacale. E fammi capire, e quando tu hai remotizzato e ti sei messo d'accordo individualmente con i lavoratori, allora andava bene. Mo che devi tornare indietro, non sai come fare a tornare indietro, ti serve il sindacato. Scusa, e che ci hai preso per Confindustria? Quindi il meccanismo in questo momento in atto è che noi dobbiamo costringere la nostra controparte a riconoscere gli elementi negoziali di rinnovo del contratto nazionale. Vi dico sugli 11 altri tre punti che sono quelli che poi mi collegano, anche se volete, alla questione referendaria. Uno è la questione che riguarda il tema degli appalti e dei subappalti. Noi nel rinnovo del contratto precedente siamo riusciti a portare a casa una cosa importante, cioè che nei cambi ad appalto delle aziende pubbliche si mantenevano i lavoratori e i diritti che che i lavoratori avevano. Invece nel privato succede come nel gioco dell'oca, ma al contrario. Cioè, ogni volta che c'è un cambiappalto, tu, se cambia l'azienda, possono cambiare i lavoratori, ma se si tengono i lavoratori, ti fanno ripartire da zero, per esempio sull'anzianità. Ti cancellano l'inquadramento che avevi. Magari tu eri specializzato, avevi delle competenze, ti riconoscevano l'inquadramento, siccome ne arriva un altro che ha vinto la gara proponendo di meno, e su chi si deve rifare se non sui lavoratori? La nostra richiesta, quindi, è quella di avanzare il fatto che a cambio appalto ci sia una corrispondenza da un punto di vista della tutela dei diritti, da un lato, e dall'altro lato dell'occupazione. E fatemi dire, anche per spingere un po' le aziende a reinternalizzare anche delle attività e ad evitare la frammentazione produttiva dentro le aziende, perché c'è un punto. Guardate che quando frammenti, quello che succede è che lo scaricabarile delle responsabilità poi dopo quando succedono i guai. Infatti, i guai che poi dopo riguardano noi, perché sono infortuni, incidenti anche mortali sul lavoro, per questo anche nel referendum voi troverete che la nostra iniziativa, quello che prova a fare, è dire c'è una responsabilità dell'impresa. E da un punto di vista contrattuale diciamo che al posto di utilizzare contratti gialli o anche contratti come il multiservizi, per esempio per le pulizie industriali, in cui paghi molto di meno i lavoratori, devi applicare il contratto nazionale dei metalmeccanici, perché pulire una scrivania non è la stessa cosa di pulire un impianto industriale. Ed è per questa ragione che noi, come vedete, teniamo insieme l'aspetto contrattuale con l'altro aspetto, quello di modificare le leggi di questo paese che hanno portato alla situazione in cui siamo. Terzo elemento che noi abbiamo dentro la nostra piattaforma è quello relativo alle questioni che riguardano l'orario di lavoro. Ora, in tante aziende noi già con la contrattazione di secondo livello sperimentiamo riduzione, anzi abbiamo consolidato anche sperimentazioni di riduzione di orario di lavoro. Ve la posso dire brutale: un'azienda o una federmeccanica che vuole fare un contratto in questa fase ci avrebbe spiazzato se veniva al tavolo e diceva: sapete che c'è? Vi do un euro di aumento e riduco l'orario di lavoro a tutte 35 ore. Ci avrebbe spiazzato, avrebbe aperto una discussione. No, loro sull'orario, sapete cosa ci hanno detto? Che siccome voi avete le ferie e i permessi degli anni precedenti, quelle ore di ferie e di permessi degli anni precedenti, a un certo punto bisogna che li fate, ma non che li fate voi, che decidete voi quando ve li dovete fare, che decide l'azienda quando è che ve li dovete fare. Per capirci, non siamo alla riduzione, siamo al fatto che uno è come se si incatenasse all'azienda e dice: io voglio venire a lavorare, voglio venire a... cioè non voglio fare i permessi, non voglio fare le ferie. Il punto invece è esattamente il contrario, è che la gente quando viene a lavorare è perché l'azienda che gli dice vieni a lavorare al posto di farti le ferie o al posto di farti i permessi. E se vogliamo essere sinceri, quando ci sono le fasi di calo produttivo, tu se le gestisci collettivamente quelle ore possono servirti anche a ridurre l'impatto che normalmente hanno gli ammortizzatori sociali, perché una cosa è che un mese stai a cassa zero ore, un'altra cosa invece è il fatto che c'hai una parte a zero ore, una parte con riduzione d'orario e un'altra parte invece che copri con lavoro e un'altra parte che copri con le ferie permessi magari degli anni precedenti. Questo è politica contrattuale. E loro invece vogliono cancellare la politica contrattuale per tenersi loro in mano il potere di poter decidere. E vado all'ultimo punto per quanto ci riguarda. Guardate, il tema del lavoro precario, chiamiamolo così, no? È una questione, appunto, che noi affrontiamo sia contrattualmente sia con la questione referendaria. Perché la questione contrattuale è che abbiamo scritto una cosa semplice dentro la piattaforma. Per chi ha conoscenza del passato, i metalmeccanici nel contratto ci avevano la soglia dell'8%, se non ricordo male, del numero degli addetti che complessivamente potevano avere contratti diversi dal contratto a tempo indeterminato. E nel nostro contratto c'è anche scritto che il contratto prevalente è il contratto a tempo indeterminato di lavoro. Questo è quello che viene professato nei principi. Nella realtà poi dopo, e ci abbiamo ormai questo dilagare della somministrazione a tempo indeterminato. Cioè che uno dice: che contratto hai? A tempo indeterminato. Ah, quindi ti hanno fatto il contratto a tempo indeterminato in azienda? No, me l'hanno fatto a tempo indeterminato, ma con l'agenzia di somministrazione. Ora, mettetevi nei panni di quel lavoratore che non ha un contratto a tempo indeterminato, E quando tu gli chiedi di scioperare per il contratto nazionale, facciamo così, abbiamo l'azienda più buona del mondo, quella che ha un rispetto del sindacato, della dignità, la migliore in assoluto. Ma nella testa di quel lavoratore, se c'ho il pericolo che mi interrompono la missione produttiva, scusatemi, io mi pongo il problema di se aderire o meno allo sciopero. Cioè, uno non deve avere neanche il dubbio che la propria situazione, da un punto di vista del ruolo del lavoratore dentro l'azienda, possa essere messa in discussione il rapporto di lavoro se sceglie di partecipare alla vita democratica dentro l'azienda. Ecco perché noi abbiamo detto in piattaforma: stabiliamo delle soglie, costruiamo dei bacini e un percorso di stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori precari dentro le aziende metalmeccaniche. Anche perché delle due l'una, vanno in televisione e dicono: non troviamo lavoratori. Io non so se voi vedete, cioè, o fanno le interviste agli imprenditori: non troviamo lavoratori. Ma scusa, ora lo dico da, come sentite dall'accento, non sono proprio di Bolzano, ma anche tra di voi vedo pochi autoctoni, diciamo così, bolognesi. Ma uno, per venire a lavorare a Bologna, a Modena o a Brescia, o... ma secondo voi, io con un contratto a 6 mesi, a 1 anno, vado a Bologna e gli vado a dire al quello che devo prendere la casa in affitto, gli dico: senti, io ti posso dare l'affitto per 6 mesi. E quello mi dice: da dove sei venuto? Mi dite dove devi andare. Preferisco fare il B&B. Perché? Perché, scusate, ma voi lo trovate uno che può dare una garanzia di 6 mesi e uno ti dà una casa? O vai in banca. Dici: ti do la garanzia che ho 1 anno di contratto a tempo determinato. È del tutto evidente che un sistema di questo tipo è un sistema che impedisce anche la mobilità delle persone per poter trovare una collocazione di lavoro. Quindi usciamo dagli equivoci. Il punto vero è che il combinato tra precarietà e bassi salari determina il fatto che le persone, un posto di lavoro, nei posti dove magari ci può essere anche domanda, non lo trovano, per una ragione. Perché quello che ha delle competenze oggi non rimane manco più in Italia. Perché il vero problema della migrazione, e vengo all'ultimo punto per esempio del nostro referendum, non è quelli che arrivano. Il problema del governo dovrebbe essere quelli che se ne stanno andando dal nostro paese. E permettetemi, siccome si fa un gran parlare di questo tema della cittadinanza, noi diciamo una cosa molto semplice: che diritti e doveri, al posto di averli 10 anni, ce l'hai 5 anni, semplice, punto, finito. Non è che stiamo parlando di stravolgimenti come quelli che sento da qualche grande solone politico in questo momento. E infine chiudo sulla questione referendaria col tema che riguarda i primi 2 punti, che sono il referendum sull'articolo 18. Tutti dicono: è un ferro vecchio, non serve a nulla, è una cosa... Scusate, ma se è un ferro vecchio, non serve a niente. Ditemi una cosa, e perché non dovrebbe ripristinarlo? Perché invece tutti quanti, anche quelli che erano in Parlamento, guardate la situazione di oggi, no? Posso dire una cosa, Renzi, che è quello che l'ha fatto il Jobs Act, è quello che coerentemente, a distanza di anni, dice: io l'ho fatto il Jobs Act e faccio i comitati per il no. Una buona ragione per andare a votare sì, già questa, senza stare manco al merito. La seconda è che invece io vedo la Presidente del Consiglio e la maggioranza parlamentare che votò contro, perché Fratelli d'Italia all'epoca, quando fece Renzi Jobs Act, votò contro. Allo stato addirittura siamo alle dichiarazioni che leggo sui giornali: andate al mare. Ora, io vorrei far presente che i parlamentari vengono eletti anche quando votano meno del 50% della popolazione che è elettorale attiva. Cioè quelli che fanno le leggi della Camera e del Senato, che riguardano tutta la nostra vita, possono essere eletti con meno del 50%. Noi, quando decidiamo di prendere noi in mano la democrazia, e ti devi fare un mazzataralo, perché prima devi raccogliere 5 milioni di firme, te le devono validare, poi dopo fanno i giochini per cui l'autonomia differenziata l'hanno tolta dal pacchetto del referendum per ridurre il numero delle persone, poi te la piazzano nel weekend in cui ci sono i ballottaggi, non le elezioni quelle principali, i ballottaggi, così che va meno gente a votare. Non ne parlano perché sui referendum c'è un silenzio assordante da parte dei livelli istituzionali, e in più ti dicono: vai al mare. E noi, per poter far passare una legge, non dobbiamo soltanto vincere con i sì, ma dobbiamo portare a votare il 51% dell'elettorato del nostro paese. Io la battuta che mi sono permesso di fare è questa: per un giorno tutti noi possiamo essere deputati e senatori. Certo, non ci daranno 15.000 euro quel mese, ma in un giorno noi potremo decidere di leggi che riguardano la nostra vita, ma permettetemi, soprattutto la vita dei figli e delle generazioni che verranno. Perché noi ci siamo trovati fino a un certo punto, a prima del Jobs Act, che ci avevano consegnato una struttura di diritti. Poi quella struttura di diritti noi l'abbiamo persa. Oggi abbiamo l'occasione, la possibilità di poterla ripristinare. E a chi mi dice tutte le cose che sento in questo momento di grandi giuslavoristi, vorrei dire solo una cosa. Guardate che se non ci fossero stati i referendum, in questo momento noi discuteremmo di tutto, tranne che del lavoro e dei lavoratori. Questo referendum sta riportando al centro il dibattito sul lavoro e sui lavoratori di questo paese. E io penso che in un contesto come questo, in cui chiudo, io sono molto preoccupato nei mesi a venire. Perché guardate che non va sottovalutato il clima che i dazi aprono rispetto ad una condizione di guerra guerreggiata che sono già in corso. Questo lo metto fuori, diciamo così, è una cosa, prendetela come elemento soggettivo. Ma guardate che un mondo che vive con tranquillità le proprie giornate, vedendo quello che sta succedendo in alcuni posti, penso a quello che sta succedendo ai bambini, ai civili, a Gaza, piuttosto che in altri posti del mondo dove ci sono le guerre, e guardate che noi siamo a un passo dalla barbarie e rischiamo di diventare noi barbari senza neanche accorgercene. Quindi io penso che costruire una solidarietà tra di noi e costruire un interesse comune di quelli che per vivere devono lavorare, il primo interesse che hanno è a quello di vivere in pace, perché in guerra non c'è più contratto, non ci sono più leggi, non c'è più nulla da redistribuire. È per questo che vi chiedo di sostenerci in questa battaglia. Grazie.